Flavio Bini ha intervistato Don Luigi Ciotti, il punto di riferimento dell'Associazione Libera. Spesso si intende la lotta alla mafia solo come contrasto alla criminalità, però che ruolo ha il lavoro nella lotta alla mafia? Beh, il lavoro non è un optional che ci può essere o ci può non essere, non è neppure solo un diritto sancito dalla Costituzione, ma non solo. Il lavoro è un bisogno profondo delle persone per vivere, per essere libere, per avere un reddito, per avere delle prospettive. Le mafie si alimentano delle ingiustizie, si alimentano di vuoti istituzionali, si alimentano della mancanza di opportunità, di riferimenti per le persone. E quindi la dimensione della giustizia sociale, che comincia dalla prossimità, che comincia dall'offrire l'opportunità a molti ragazzi nel vario territorio, diventa veramente lo strumento più alto di prevenzione. L'altro ieri è stato sottoscritto un accordo importante di cui i media non hanno parlato molto, con il Corpo Forestale e con l'Agenzia Nazionale per le Confische. Ci può spiegare perché è così importante questo accordo? Molto, perché rispetto dell'ambiente, la natura, il dato agricolo, la fauna, la flora del nostro paese sono un dono che deve essere tutelato, garantito, rispettato. E devo dire che è molto bello questa collaborazione, perché su molti di questi beni nel nostro paese vengono commessi dei crimini. E allora la Forestale ha chiesto perché non ci mettiamo insieme per una cultura, per una dimensione educativa, per informare nel modo giusto, ma se in questi territori ci sono dei beni confiscati, degli abusi edilizi, delle violenze al territorio, penso a certe zone dove i rifiuti sono stati sommersi, quindi con inquinamento delle acque del territorio, lavoriamo e costruiamo dei percorsi insieme. Sta approdando alla Camera un provvedimento molto discusso, il disegno di legge sulle intercettazioni. Lei ha detto che il testo è stato comunque migliorato, ma bisogna lavorare ancora. Perché? Sì, perché ci sono dei reati spia che ti permetterebbero, se si potesse ancora intercettare quei reati che sono stati cancellati, al di sotto di 5 anni non si può più fare per reati intercettazioni, si poteva risalire, come è successo in passato, che da piccoli reati, da piccole situazioni si è potuto risalire a grandi giochi criminali. E quindi togliere, mettere un tetto, impedire che si possa fare una serie di esercitazioni in quegli ambiti lì, e beh, va a mortificare, ma lo dicono i magistrati, lo dicono le persone competenti, lo dicono quelli che ha permesso loro, attraverso quelle indagini e quegli strumenti usati, poter risalire a grande criminalità, a grandi personaggi, anche a fare arresti di grandi latitanti. C'è una sfera che deve essere rispettata, se è strettamente personale, ma che nessuno metta un bavaglio all'informazione, perché l'informazione libera non è informazione. È vero che si dice, no, le indagini per le mafie si possono fare. Sì, signori, però vengono poi limitate nel tempo, poi diventa tutto più complesso, più difficile. E quindi il grido che giunge da bravi magistrati è un grido che è attento e puntuale. Per lei il valore del recupero, il valore simbolico del recupero è particolarmente più forte rispetto ad altri. Ieri è uscita una dichiarazione di un deputato della Lega, membro dell'antimafia, che commentando un'altra piaga molto importante di questo periodo, cioè i suicidi in carcere, ieri si è suicidato un condannato per mafia, ha detto bene così con pedofili e mafiosi. Io le chiedo senza retorica, non è una domanda retorica, vanno commentate queste parole, vanno interpretate, spiegate? È una vergogna, grande vergogna. La vita, qualunque vita, merita il nostro attenzione e il nostro rispetto. Qualunque vita si chiede responsabilità, ma chiediamo anche noi attenzione. Quando una persona arriva a quegli estremi gesti, una società in ogni caso che si impoverisce, che si deve chiedere come mai c'è tanta violenza verso gli altri e verso se stessi. Questo non vuol dire semplificare, che ha commesso dei reati deve rendere conto, non solo alla propria coscienza ma anche alla collettività. Ma la risposta di un paese civile e democratico è sempre una risposta civile. Una risposta che nei percorsi della legalità e della giustizia non si dimentichi di un'attenzione alle persone. Innanzitutto alle vittime. E poi a chi ha commesso il reato, che venga messo in grado di trovare quello che la Costituzione ci dice, le opportunità per prendere coscienza delle proprie responsabilità e per poter anche restituire la violenza, il torto, il danno che è realizzato verso gli altri. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui, www.radio24.it, dove potete trovare tutte le puntate, tutte le storie che vi raccontiamo ogni giorno. Il nostro gruppo su Facebook è Radio 24 Italia in Controluce. Torniamo lunedì 21 giugno 6:30 su Radio 24.